Marta inter Marata. Sanctus, Sanctus Dominus. Vergare spice mate aspice. Sanctus, Sanctus Dominus. Buonasera seguaci e seguacie di Testa Accoliti e accolite. Discepoli e discepole, vogliamo continuare no, così dai, per un po'? Sì. Fedeli e fedeli. Ecco appunto, sì. Siamo arrivati all'11ª puntata di Sesto Croce Show. Incredibilmente sì, siamo in diretta dagli studi di Radio Cage, gelida giornata di gennaio ancora. Certo, è il 26 gennaio. È il 26 gennaio, fra poco ci sarà l'almanacco, ma prima sì. Ricordiamo velocemente i contatti per interagire in diretta con noi. Scrivete all'email testacroceshow@gmail.com. Oppure seguite il nostro blog testacroceshow.blogspot.com. Ma soprattutto chattate con noi su Skype Testa Croce Show. Con noi c'è Federico in cabina di regia, cabina come che non sempre c'è. Sempre il nostro... Come non c'è? Non il c'è. Nostro... C'è sì, Fede, ma non c'è la cabina. Ma come no? C'è, bellissima, tutta diamantata. Non fare dare questa immagine di Radio Cage. No, quale immagine? No, appunto. E poi ci sarà... anzi, c'è già con noi uno straordinario ospite. Non avevi visto, proprio accanto a te. Infatti, l'ho visto adesso. Sì, un ospite attesissimo, che è sì. Lorenzo Cominelli, frontman degli Indovena, nonché... grandissimo showgirl, no, saluta Subrette, dice. Subrette. Ciao Lorenzo, si definisce buonasera, Subrette. Ciao a tutti, come si dice, tutti i radiospettatori, si dice ma... audioascoltatori, sì, no, ma ognuno dice un po' come vuole, sì, insomma. Ciao a questa strana razza degli audiospettatori. Sentirà che voce suadente, hai già conquistato un sacco di ascolti in più, sì, con queste parole. Sì. Il pubblico femminile di Radio Cage sta accorrendo a frotte, sta svenendo fenomeni di paranoie di massa, eccetera. Sì, sì, anche il pubblico in studio è già in delirio, assolutamente. Vai, non bando alle ciance, ovviamente parleremo ancora con Lorenzo durante la trasmissione. Sì, Lorenzo sarà con noi per tutta la trasmissione, quindi commenterà con noi le notizie del giorno, poi gli faremo un paio di domande sulla sua vita privata, sui dettagli, sì, no, sì, del, sì, di quello che fa a letto, insomma. Ah, cose è questo del che si fa, mi fa dei cazzi miei. Certo. Codici anche bancari, queste perfetto, cose qua. E ovviamente essendo anche musicista, ma sì, parleremo anche un po' forse, di musica. Sì, se capita. Forse. Beh, direi di passare all'almanacco di andiamo, questo show, andiamo al solito. Sì. I santi di oggi sono pochi e semplici: Tito, Teogene o Teogene e Timoteo o Timoteo. Quindi tutti con la T, bravo. Sì. Infatti. E invece passiamo alle defunzioni, come si suol dire, vabbè, alle morti celebri. Nel 1795 moriva Jan Christoph Friedrich Bach, compositore, da non confondersi con Sebastian. E poi nel 1824... Sebastian, il granchio quello di... della Sirenetta, sì, esattamente, lui, grande musicista. E poi Theodore Géricault, pittore francese. Pittore, certo, sì, sì, certo. Invece nascevano il 26 gennaio Philippe José o Jose Farmer, il famoso scrittore. Pensavo di... José Mourinho, no, perché no, anche no, lui. Anche, no, lui, anche Philippe, lui. No, il no, famoso scrittore di fantascienza, sì. E Paul Newman, l'attore. Mentre sì, invece oggi è il compleanno di Corrado Augias, grandissimo scrittore, giornalista. E collega, direi. Collega, sì. E di Daniele Luttazzi. Tanti auguri a Corrado e a Daniele. E poi ricordiamo anche la nascita del XII Dalai Lama nel 1857. Ricordiamo anche il compleanno, soprattutto, di due musicisti, che sono Andrew Ridgely, chitarrista degli Wham, gruppo originario di... Di gruppo Michael, urinario hai detto originario di George Michael. E poi ricordiamo soprattutto, ma questo soprattutto aggiungo io, Eddie Van Halen, chitarrista di Van Halen, appunto. Benissimo. E ci andiamo proprio ad ascoltare un pezzo dei Van Halen, casualmente. Ottimo. Che è uno dei più noti, Hot for Teacher, che, cioè arrapato per l'insegnante. Sentiamo. We'll be right back. Bentornati su Radio Cage. Rieccoci. Sentiamo in sottofondo il finale di Fat for Teacher. E intanto andiamo a parlare del concorso. Il nostro concorsone esistenziale. Sì, arriva la seconda edizione. E vi ricordiamo, il premio in palio questa volta è niente pomo di meno che sì, la mela. La mela di Eva, esatto. La mela morsicata da Eva. Con tracci di DNA, evidentemente. Probabilmente sì. Da cui potrete clonarla e dare via una nuova stirpe umana. Insomma. Beh, ci sarebbero un po' di questioni che si aprirebbero sulla clonazione, sul DNA di Eva, insomma. No, nonché sulla sua esistenza. Nonché sulla sua esistenza, certo. Bene, bando alle ciance. Vogliamo ricordare le domande che abbiamo già fatto? Mi sembra doveroso. Allora, la prima domanda era: chi è il diavolo? Esatto. E la seconda qual è il potere più duraturo dell'universo, no? Più o meno, al mondo, beh, sì. Dell'universo, è indifferente. E stiamo per farvene un'altra. Sì, e ve la introduciamo in che modo? All'uopo vorrei che Fede ci facesse partire un pezzo in sottofondo. Che secondo me sarà molto piano, mistico. Piano, sempre molto mellow, molto new age. Eccolo. Sì, questo sì, crea il giusto ambiente, sì. Proprio quello che ci vuole per cambiare canale. Allora, il Dhammapada è un testo della tradizione buddista. Sì, il libro più amato dal canone buddista, esatto. Secondo la mia edizione. Anche uno dei più amati da me stesso, per esempio. Specialmente quando puoi acquistarlo a 1,30€. Certo. Non è da tutti, insomma. Bene, cominciamo allora. Siamo ciò che pensiamo. Tutto ciò che siamo è prodotto dalla nostra mente. Ogni parola o azione che nasce da un pensiero torbido è seguita dalla sofferenza, come la ruota del carro segue lo zoccolo del bue. Siamo ciò che pensiamo. Tutto ciò che siamo è prodotto della nostra mente. Ogni parola o azione che nasce da un pensiero limpido è seguita dalla gioia, come la tua ombra ti segue, inseparabile. Mi ha insultato, mi ha aggredito, mi ha ingannato, mi ha derubato. Se coltivi questi pensieri, vivi immerso nell'odio. Mi ha insultato, mi ha aggredito, mi ha ingannato, mi ha derubato. Abbandonando questi pensieri, ti liberi dall'odio. Perciò svegliati, osservati, agisci con purezza e con attenzione, conformemente alla legge eterna, e la tua gloria crescerà. Con la consapevolezza, con la padronanza di sé, il saggio si costruisce un'isola che nessun diluvio può sommergere. L'inconsapevole agisce distrattamente. Il saggio, invece, custodisce la consapevolezza come il suo tesoro più prezioso. Perciò non lasciarti andare all'inerzia e non lasciarti trascinare dai desideri. Concentra la tua energia nella meditazione e scopri la felicità più grande. Sì, decisamente. Direi. Ecco, c'entra relativamente in realtà, però ecco... Basta Buddha... che minimo c'entri, esatto. Sennò poi ti censuro la prossima puntata. Buddha parla di, in pratica, di autoresponsabilizzazione, in un certo senso, no? Sì. E quindi l'autoresponsabilizzazione, che è un valore in cui io personalmente credo molto, prevede che in qualche modo si possa, cioè si abbia un'influenza sul corso degli eventi, cioè le proprie scelte... Sì, quindi abbiamo già capito, secondo me i più fantasiosi hanno già capito l'argomento. La domanda è: siamo liberi o ogni nostra azione è predeterminata in una catena di cause effetti? Cioè in pratica una domanda destino sul... Destino o no? Libero arbitrio o no? Sì, libero arbitrio. Cosa ne pensa Lorenzo, per esempio, visto che è qua? Ecco, sentiamo la prima risposta. Boh. La prima risposta è boh, complimenti. No, capisco, è un tema complesso. Sì, insomma, vuoi pensarci un attimo, ci torniamo dopo. Io fondamentalmente sono un costruttivista, quindi... Wow. Complimenti, anch'io, in parte. Direi. Anch'io, in parte. Bene. No, io credo innanzitutto che la nostra mente, biologicamente e funzionalmente, vada a crearsi crescendo in base alle esperienze che facciamo. E quindi, fra l'altro, sto facendo una bellissima materia all'università. Ricordiamo che Lorenzo è studente di biomedicina, anzi sì, laureando. Potrei presentarmi anche come esperto di reti neurali, anche se non sarebbe male. E dove appunto c'è questo discorso che va a studiare come funziona la rete neurale, tutte le varie cellule che abbiamo in testa, che sono 10 miliardi, sono un bel po'. Basta pensare che la popolazione mondiale sono 7 miliardi. Qualcuno ne ha meno. Qualcuno ne ha bruciate qualche miliardo già. Però... Ma ricrescono o no? In realtà sì, più che ricrescono, diciamo che può spostarsi l'area funzionale, quindi se te diciamo che ti bruci un pezzo, hai un altro pezzo che cioè praticamente assume una funzione in più. Cioè, ci sono delle storie affascinanti, ci sono delle incidenti che poi si sono risolti anche in senso quasi positivo, diciamo, con un recupero appunto dell'uso dell'encefalo. Ma non ci addentriamo in questo tema. Direi diamo una qualche notizia flash. Sì, diamo qualche notizia, qualche ansia. Vuoi cominciare tu, Gab? Ma sì, con un po' di ansia anche, direi. Dunque, vediamo. No, non ce n'è molto. Dall'Associated Press, allora, del 25 gennaio. Dunque, Mitt Romney, che ormai saprete tutti, è il mormone che è candidato a sfidare Obama alle prossime presidenziali negli Stati Uniti, certo, darà nel prossimo anno e nei prossimi anni 2,06 milioni di dollari alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, che vi ricordo è un altro nome con cui si chiama la Chiesa dei Mormoni. Sì. Ben 2,06 milioni di dollari, vi ricordo. Perché? Perché ha previsto che dia il 10% dei suoi introiti, come avveniva, se vi ricordate, nel caso dei portatori di torcia dell'IM Movement, di cui parlavamo nella seconda puntata. Ah, quindi i mormoni hanno lo stesso meccanismo. A quanto pare sì, magari non è forse proprio strettamente necessario, ma sicuramente incoraggiato. E sì, questo ci fa anche capire che Mitt Romney possiede circa 40 milioni di dollari di introiti all'anno. Vabbè, questo un bel po' di soldi. Sì. Quindi, insomma, diciamo che i mormoni faranno un bel salto se lui dovesse diventare presidente degli Stati Uniti. Sì, sì, decisamente. La stampa, lo scorso 24 gennaio, ci dice che una notizia simpatica sul nostro Papa. Allora, ha presentato il messaggio per la prossima giornata delle comunicazioni sociali, che si celebrerà il prossimo 20 maggio, sul tema silenzio e parola, cammino di evangelizzazione, elogiando la rete, che può essere strumento di evangelizzazione. Il Papa ha sottolineato come in internet i messaggi siano in fondo non più lunghi dei versetti biblici. Giusto, giusto. Quindi, ma possono racchiudere pensieri profondi, esatto, aggiunge il buon Benedetto. Sì, infatti il pontefice, il buon Benedetto. O il Benedetto buono. Sì, il Papa buono è diventato il Papa buono. Guarda non con sospetto il Papa, ma con curiosità e apertura a queste nuove tecnologie, nella consapevolezza che per la Chiesa ogni mezzo è buono se buono è il messaggio. Quindi anche se lo lanciamo, non so, con una bomba, basta che sia buono il messaggio. Non esageriamo. In realtà ci dice Monsignor Claudio Maria Celli, presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, che appunto si occupa di questi aspetti della Chiesa, che il Papa faceva certamente riferimento a Twitter durante il suo messaggio. No, questo è un comunicato ufficiale. È ufficiale? Sì, sì. Ecco. Cioè, del comunicato ufficiale del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Sì, e sì. Comunque vi ricordo che già un gran numero di potenti della Chiesa, tra cui Cardinale Sean O'Malley di Boston, e Gianfranco Ravasi, presidente del Concilio Pontificio per la Cultura, usano Twitter e hanno milioni di seguaci. E anche Ravasi, lo stesso Papa, che inviò il suo primo tweet il 29 giugno 2011 su @news_va_n. Dear friends, I just launched news_va_n. Praised be our Lord Jesus Christ with my prayers and blessings. Benedictus XV. Cioè, sedicesimo. In pratica, però, esatto, sì. In pratica sia benedetto no? Il Papa, no? Il nostro Signore Gesù Cristo con le mie preghiere e benedizioni. Ecco, quindi seguite il Papa su Twitter, o anche no. Bene, direi che approfittiamo appunto della presenza di Lorenzo per mandare un pezzo della sua band, dell'Indovena, poi ne parleremo anche un po'. Questo è dal loro ultimo album, se non hanno fatto un altro, che lo sapesse. Lascia andare la marea, se non sbaglio, giusto? Esattamente. Questo è Fedor, parte 1, che parte così, proprio... Parte 1, direi. Quando meno te la stessa. Strada che non porta a niente, e mi diverte pensare che siete fatti di cose truenti e di morbidità. Potrà darmi piacere. Il nemico che non sa farmi del male. Rieccoci qua, amici di Eccoci in Testa studio Show. E soprattutto amiche. Questa era Fedor, la prima parte, dall'album Lascia andare la marea, ecco, degli Indovena. Ma visto appunto che abbiamo appunto il bassista e voce degli Indovena, prima voce degli Indovena qui, direi di approfittarne, di sentire, avete, la sua voce, di sentire la sua voce. L'abbiamo già sentita, però la sentiremo ancora. Se avete delle domande da fare a Lorenzo, chiedete, vi sarà dato. Esatto, mettetelo in difficoltà. Ci divertiamo un po' così oggi, quindi inviateci delle mail a testacrocesshow@gmail.com oppure su Skype a testacrocesshow. Allora Lorenzo, gli indovena, chi sono? Siamo tre simpatici ragazzi ai quali si è aggiunto un quarto elemento. Oh, questa è una news. Già si parte con una news. Già si parte con uno scoop. No, praticamente abbiamo assunto appunto questo ragazzo, questo spilungone di Crespina, detto anche il maestro Fagiolini, che è proprio il suo nome, Giulio Fagiolini, che saluto appunto. Ciao Giulio. E niente, è addetto a tutto ciò che riguarda la tastieristica, quindi dal piano a tutti i sinti, gli effetti. Ah, ma avete già fatto qualche concerto? Sì, sì, sì, sì, sì, l'abbiamo già sfruttato. Sì, ora mi ricordo, sì, sì. E un valido elemento, molto, devo dire. L'ultimo concerto che abbiamo fatto è stata la Festa dell'Unità, che ora si chiama Festa del PD, sì. Qui a Livorno, e appunto c'era anche lui. E sarà cioè è diventato componente fisso, effettivo, ufficiale della band. E la collaborazione con la affascinante signorina? La signorina Rama Hafsi, sì, appena reduce da X Factor. Ah, però non lo sapevo. Come non lo sapevi? No, no, non seguo molto la TV, quindi. Vabbè. Però ho visto quel concerto vostro in cui c'era lei. Sì, sì, sì, abbiamo fatto comunque anche questo progetto parallelo dove suoniamo, cioè quella è proprio roba sua, nel senso sono pezzi suoi riarrangiati in chiave un pochino più rock, comunque rimane sempre nel soul, R&B. Sì, sì. Infatti, è una voce, grande voce soul. Sì, sì, sì, no, una bellissima voce e fra l'altro divertentissimo anche per noi cimentarci in questo genere musicale che proprio non ne sapevamo niente. Sì, sì, è stata una bella esperienza. Ma ora parliamo un po' dell'indovina, non abbiamo ancora detto cosa fate voi. Cosa fate? Cioè, che genere? Niente, noi praticamente facciamo musica rock, completamente indipendente, scritta da noi. Non chiamiamola indie, perché ormai indie non significa no, più ma nulla, non ho mai capito cosa significa. Anch'io spesso dico faccio indie, ma non so cosa sto dicendo. Quindi. Ah, indie è il soprannome di Indiana Jones. Penso di sì, sì, sì. E mi piacerebbe molto per l'altro essere Indiana Jones, ma non lo sono. E era il cane, però, di Indiana Jones. Era il cane, Indiana. Indiana in realtà è il nome del cane della famiglia Jones. Cioè la famosa scena quindi in cui forse Salla non ti piacerebbe più. Ride dicendo tu porti il nome di un cane. Esatto. No, vabbè, ma non lasciamo stare Indiana Jones. Sì, ci facciamo prendere dal fanatismo. Okay. E dunque, niente, che vi devo dire? Dici un po', per esempio, ecco appunto, gli album che sono già usciti, so che avete vinto tantissimi premi, tantissimi. Siamo insomma, molto la critica, ricchi, infatti. Ecco, infatti, la critica vi adora. Così un po' come quel simpatico mormone. Anch'io ho donato 2 milioni di euro a qualcuno. Ecco. Gli adoratori vi criticano. Ecco, la critica, esatto, vi adora. La critica vi adora. E no, poi so che state scrivendo il nuovo album, no? Sì, quindi siamo completamente infognati in sala prove a scrivere pezzi nuovi. Fra l'altro abbiamo già pronti una decina di pezzi a livello musicale. C'è un vuoto cerebrale totale mio per quanto riguarda i testi, infatti devo ancora fare tutto. Non sappiamo come si chiamerà l'album, non sappiamo come si intitolano le canzoni. Diciamo che abbiamo fatto una cosa che non contiene parole ancora. E niente, verranno fuori. Comunque sono già 10 tracce su cui lavorare. Sì, su un genere, fra l'altro, sì, che non saprei assolutamente definire. Perché ma qui c'è un'innovazione. Sì, no? Lo buttiamo sempre nel calderone del rock, però non saprei bene. Ecco, giusto per capirsi, non è musica sacra, per esempio. No, ad esempio non è Christian Rock, ad esempio non è black metal, e non è benissimo nemmeno brutal swing, però bello brutal swing. Lo dici un po' come se avessi qualcosa contro il brutal swing. Ma il brutal swing è un genere che amo particolarmente. Benissimo. Purtroppo non mi riesce, anche ci ho provato a volte. Ma. E uscirà, spero, prima della fine del mondo, nel 2012. Sì, certo. Quindi per un po' non avremo chance di vedervi dal vivo? No, purtroppo no, purtroppo lo dico soprattutto per me che fremo di fare un live, ma non ho voglia di fare i pezzi che faccio da 2 anni, non ho ancora pronti quelli nuovi e quindi appena avremo qualcosa di pronto ripartiremo con tutta una serie di concerti, eccetera. Benissimo, vogliamo dire il sito? Il sito è semplice, basta ricordarsi il nostro brutto nome, www.indovena.com, semplicissimo. Ecco, per informazioni, contatti potete andare direttamente sul loro sito e scrivere, no? Tanto sì, poi da lì sì, ci sono tutti i rimandi ai vari Facebook, Last.fm, esatto, YouTube, via dicendo, MySpace, si possono ascoltare i brani. Ultimamente, fra l'altro, abbiamo lanciato questa offerta per i nostri amici concittadini. Il nostro album è reperibile all'ultimo punto da Scendere la Marea alla Svolta, che saluto gli amici del pub, e si può trovare così, offerta a 5 euro, uno va lì, si prende una birra, si prende un disco e va a casa. Ecco, perché vi ricordo che non è più possibile trovarlo su Mega Upload da qualche giorno a questa parte, quindi... purtroppo. Ma non per colpa di Lindovena, quanto per... L'ho arrestato io in realtà. No, molto bene, molto bene. Direi di ascoltarci un altro pezzo. Un altro pezzo, e noi chiediamo in genere ai nostri ospiti di presentare uno o due brani musicali. Insomma, Lorenzo ne ha scelto uno che lascio presentare a lui. Sì, mi avete appunto chiesto di portare un pezzo. Io sinceramente ascolto un po' di tutto, appunto dalla brutal polka o swing che sia, nel senso veramente tutto elettronica, anche il pop può essere interessante, il rock, lo ska, tutto. E sono stato parecchio colpito da questo album, da questo ragazzo, questo bimbetto, si dice, dell'88, che in realtà insomma, è un uomo ormai, siamo noi che si invecchia, questo James Blake, James Blake. Ci ascoltiamo Limit to Your Love, che era una canzone in realtà di Face. Sì, infatti io sono andato a informarmi perché sono stato colpito parecchio dal testo, anche oltre dall'atmosfera particolare che c'ha, e è una canzone di Face, questa canadese, però mi piace di più questa versione, poi insomma, gli ascoltatori valuteranno. Che non è ancora partita, ricordiamo che abbiamo mandato un pezzo cantato da Face la scorsa puntata. Ah, giusto. Ce lo ascoltiamo, bene. Limit to Your Love. Like a waterfall in slow motion, like a map with no ocean. There's a limit to your love. There's a limit to your love. Your love. Ci risiamo dopo questa traccia ricca di sorprese. Questa traccia altalenante. Sì, però comunque straordinaria, crea un bel mood. Assolutamente me, sì. Oh, e stavamo parlando con Lorenzo degli Indovena. A questo punto, visto che la nostra trasmissione è incentrata sulla religione, su tutto ciò che ci gravita intorno, vogliamo chiedere a Lorenzo qual è la sua religione. Hai detto bene, la mia religione. Nel senso che... No, un po' non persuaso da tutte le religioni che mi si proponevano, mi sono inventato un po' delle religioni mie, ma non è facile da... Da buon costruttivista. Da buon costruttivista, costruito ovviamente. Una religione, è giusto. No, ma non è una religione, è così, è come... Vabbè, una visione del mondo. Sì, come tutti, diciamo che... Una Weltanschauung. Così, per le voci. No, i nostri ascoltatori invece sono molto selezionati e molto... Non volevo assolutamente dare dei porci. No, no, dici punti salienti, sì, ecco. Sì. I punti salienti... Intanto, c'è un Dio o non c'è un Dio? Sì. C'è un Dio. Io lo chiamo l'idea. Sì, mi piace molto. Con la I maiuscola o minuscola? Con la I maiuscola, sennò che cavolo di Dio. Scusa. Naturalmente. No, ma non saprei nemmeno spiegarlo così. Tra le azioni salienti, diciamo, non lo so, boh, che non esiste un cavolo in realtà. Non esiste niente. No, non c'è niente se non appunto tutto ciò che l'idea riesce a costruire. Quindi è tutto mentale nell'uomo. Il grande dubbio è se l'idea sono io inteso come io, o è una totalità, nel senso che è una sommatoria, una media di tutti gli gli eghi anche, sì. E niente, è un po' un casino, perché alla fine se ci pensi tutta la realtà che vivi è una somma di percezioni, nel senso che ti arriva una casellina dove ogni casella è vista, gusto, olfatto, udito e via dicendo, e in base a quello costruisci la realtà in cui ti trovi, i tuoi ricordi, e il futuro, il passato, il presente, l'idea temporale, tutto ciò che ne consegue, e però in realtà c'è anche qualcos'altro. E per o te potrebbe spero. Essere quello invece la totalità del mondo, cioè quello che uno percepisce, quindi quasi solipsismo. Cambia direi, cioè... tutto, perché se è una cosa assolutamente egocentrica diventa una specie di Tomb Raider dove si caricano i livelli a mano che va in giro... Un videogioco, esattamente, una cosa alla Matrix, diciamo. Sì, così. Se ci ascolta qualche genitore che non è avvezzo a... Sì, se invece esiste una realtà totale dove tutti contribuiscono, hai allora una sorta di realtà che è un cubo deformabile da varie entità, che potremmo definire dei vettori. Wow, e allora la realtà si sposta e si deforma in base alla forza e alla quantità e alla direzione di questi vettori. Cioè in base a quello risultante, praticamente. Esatto, come una visione un po' meccanica, avvezzo, diciamo. Sì. In base a una realtà che è una risultante delle... E gli I, ovviamente, sono le volontà delle persone che poi muovono le azioni di ogni persona. E questa, diciamo... Che un po' trip! Diciamo una media aritmetica delle volontà, più o meno, ma non esattamente, però per rendere l'idea. Posso assicurare a mia madre che se mi sente non ho assunto alcuna parola al momento. Né adesso, né al momento puoi di questa ideazione. Puoi farlo a prescindere dalla veridicità. Ecco, infatti, di questa affermazione su cui non metteremo la mano sul fuoco. Perfetto. Bene, comunque questo mi sembra un'ottima introduzione alla rubrica novità assoluta. Che vi ricordiamo tratta le religioni nate negli ultimi, diciamo, due secoli o giù di lì. Esatto, le novità appunto assolute in quanto religioni. E questa sicuramente di Lorenzo è una di queste, ma ci sono anche i cosiddetti culti del cargo. Allora, cosa sono i culti del cargo? Con questa espressione si fa in realtà riferimento a una serie di movimenti religiosi. E, diciamo, il primo risale alla fine dell'Ottocento e comunque il punto focale di questi culti è quello che c'è una popolazione praticamente a basso livello tecnologico, di solito di stampo tribale, che entra in contatto con un'altra a elevato livello tecnologico, quindi tendenzialmente anche occidentali o conquistatori, e comunque questa a alto livello tecnologico viene riconosciuta come divinità o ritenuta comunque erroneamente dalla tribù favorita da una divinità. Perché? Perché vedono non solo dei comportamenti inconsueti che hanno, che sono magari perfettamente giustificati, ad esempio, che ne so, dei militari che marciano e viene visto come un rituale della tribù, ma non solo, vedono che hanno dei beni materiali molto che invidiano moltissimo e che spesso vengono lanciati magari da paracadutati, come appunto dei cargo, sì, e quindi sembrano provenire dal cielo. Appunto, sbaglio sì. O spesso è proprio la manifestazione contingente, no? Cioè il modo in cui lo vedono per la prima volta che viene poi che diventa poi oggetto di culto. Cioè, sbaglio, un aereo... questa è ignoranza. Più che altro. guarda, potresti chiamarla così. In realtà, secondo me, potrebbe essere anche uno motivo per cui sono nate altre religioni. Cioè, è molto interessante, secondo me. È molto interessante, però vabbè, questo ne parliamo dopo. Ora diciamo qualcosina in più per capire di cosa stiamo parlando. Intanto, proprio in virtù di questa necessità di un grosso gap tecnologico, questi culti sono nati più che altro in Nuova Guinea, Melanesia e Micronesia, che sono territori relativamente nuovi dell'Oceania, appunto, continente scoperto più di recente. Anche se culti simili sono apparsi anche da altre parti, però una diffusione maggiore si è avuta intorno alla Seconda Guerra Mondiale, quando appunto le tribù di quei luoghi vedevano arrivare le navi giapponesi, americane, non solo, ma alcuni militari sbarcavano e poi facevano delle basi, ottenevano dei rifornimenti in quelle zone e quindi la popolazione li aiutava generalmente, neanche tanto volontariamente, magari comunque li aiutava a allestire i campi e tutto, e li osservavano e notavano la loro opulenza e le loro pratiche bizzarre. Certo. Al giorno d'oggi ne sopravvivono pochi, l'unico che sopravvive ancora è il culto di John Frum, o Fram, non saprei bene come si pronuncia, e che è un culto diffuso sull'isola di Tanna, nello stato oceanico di Vanuatu. È nato tra il 30 e il 40, quando Vanuatu era un condominio anglo-francese, nelle Nuove Ebridi, e pare però che questo culto di John Frum fosse preesistente, cioè c'era una divinità vulcano locale, adorata, e poi praticamente questo culto del cargo, nato dopo, si è sovrapposto, come spesso accade anche con i culti religiosi, mischiandosi e quindi originando una cosa diversa. Il massimo sviluppo si è avuto appunto quando arrivarono 300.000 soldati statunitensi nelle Nuove Ebridi, che dovevano difendere l'arcipelago da una possibile invasione giapponese. Ricordiamo che il Giappone non è sì. Molto lontano da lì. John Frum infatti viene descritto a volte come un soldato americano, a volte un uomo di colore, a volte un bianco. Ci sono insomma teorie discordanti, sono un po' confusi. Il nome forse era Michael Jackson. Sì, deve essere quello. No, sembra che il nome possa derivare da John from America, John dall'America, cioè, che poi è diventato John From, semplicemente. Allora, pare che appunto una cosa molto importante nella creazione di questo culto è stato proprio il fatto che tanti militari statunitensi già a quel tempo erano di colore, siccome la popolazione del luogo è anch'essa di colore, sì. Ha associato John Frum a uno di questi militari, praticamente. Sì, sì. Cosa succede? Allora, vedono questi soldati che marciano, vedono le torri radio che sono state costruite, vedono arrivare aerei che fanno paracadutare dei rifornimenti, dei, sì, cargo dal cielo, e credono che siano ovviamente mandati dalle divinità che evidentemente favoriscono queste persone. Perché? Perché fanno quei rituali, quelli, ecco, che loro ritengono dei rituali. E quindi loro cominciano a imitarli, immagino. E quindi esattamente cominciano a imitarli. Dal 57 il leader del movimento, della tribù, detto Nakomaha, creò un esercito di Tanna, un'organizzazione che solo apparentemente è militaresca e in cui i partecipanti sfilano a torso nudo con la scritta USA sul petto, wow, con dei finti fucili di bambù che hanno costruito, e non solo, hanno costruito anche delle torrette radio in legno, delle radio di legno fatte anche con le noci di cocco, delle cuffie fatte con le noci di cocco in particolare, immagino questa scena. Loro fanno questi rituali ogni 15 febbraio, tutt'oggi, chiamandolo il John Frum Day, sì, e marciano sperando di ottenere appunto questo ritorno del benessere che c'era in quel periodo, dei doni della divinità, dei beni, certo, poi, sì, materiali. Sì, sì. Quando alcuni giornalisti che hanno intervistati, giornalisti occidentali di religione cristiana, hanno chiedendo spiegazioni per tale credenza, gli isolani sembra che abbiano risposto: voi avete atteso per 2000 anni il ritorno del vostro messia, mentre noi attendiamo solo da 70 anni. Ecco, quindi diciamo che hanno decisamente vinto loro. Domanda, ma si legge in giro che appunto il culto di Fram è il primo, uno dei primi, no? È vero oppure è una sciocchezza? No, in realtà no, ci sono molti culti, ecco, nati molti prima. Culti, il primo è il movimento Tuca, nato nelle isole Figi nel 1885. Poi ci sono altri, c'è il culto Taro nella Papua Nuova Guinea. E poi anche altri, comunque no, non è uno dei primi, però uno dei più importanti, è l'unico che sopravvive ancora oggi, insieme al movimento del principe Filippo, che è il movimento che ritiene che il principe Filippo d'Inghilterra sia una divinità. Ecco, vabbè, però non andiamo a indagare oltre. No. Per la gioia degli antropologi, oserei dire, no? Questo, sì, culto, sì, sopravvive. Sì. Ma andiamo, facciamo un intervallo musicale? Sì, sì, direi, okay, che ci sta ancora con un brano degli Indovena. Uno dei miei preferiti personali, Con te. Nella notte il silenzio, io lo sento dentro di me, così fioca e gentile. C'è una voce che dice: bentornati. Bentornati con te, con noi. con noi, dai, sì. C'è scritto Francesco che mi ha convinto, ora sono un adepto ufficiale della religione Idea di Lorenzo. Ecco, ho già un seguace. Già un seguace. Posso aprire una chiesa? In due si può fare, dai. Certo. Penso anche da solo. Anche da solo. E poi c'è scritto che è un po' anche se è un po' un culto del cargo, cioè riferendosi sempre all'idea di Lorenzo. Non so se ha capito bene cos'è il culto del cargo. Ma penso di sì, forse sì, comunque. Forse sì. Dunque, avevamo accennato del culto del principe Filippo, che ho scoperto piace molto a Lorenzo, quindi dirò due parole. No, vabbè, che praticamente mi sono un po' incuriosito, perché è bella, ecco, questa cosa del principe Filippo, e la cosa più bella di questa religione è che il principe Filippo continua a prendere per il culo questa popolazione, spedendo dei ritratti autografati. Non esagerare, dai. Diciamo, ma che sì, il culto anche in questo caso si è sovrapposto al culto di uno spirito delle montagne, degli abitanti dell'isola di Tanna. E poi successivamente, appunto, vedendo gli ufficiali britannici di stanza nella zona, che adoravano, insomma, veneravano la regina Elisabetta, hanno pensato che il principe Filippo fosse figlio di una divinità, appunto. E quando l'ha scoperto, il principe Filippo ha cominciato a mandare delle foto, appunto, e l'ultima l'ha mandata pochi anni fa. E gli isolani le tengono come delle reliquie. Ma non si fa così. Cioè, bene, direi che Lorenzo potrebbe mandare una sua foto a Francesco. Sì, potrei mandare una mia foto autografata al mio unico adepto. Ovviamente firmata Idea, no? Ciao, io sono l'Idea. Beh, è una buona idea, è una buona idea. Buona idea. Dunque, vediamo brevemente, sì. Chiudiamo con altri culti del cargo, appunto. Dunque, un culto simile è quello della danza degli spiriti, giusto Vincenzo? Esatto, si è presentato dal contatto tra le due civiltà dei nativi americani e degli anglo-americani alla fine del XIX secolo. Il profeta Wovoka, della tribù dei Paiute, predicava che danzando in un certo modo gli antenati sarebbero tornati per mezzo della ferrovia e che una nuova terra avrebbe coperto la gente bianca. Quindi, che senso? Cioè, sarebbe cascato tonnellate di terra sulle popolazioni bianche, cioè. Sì, praticamente i bianchi sono visti come ovviamente degli oppressori, no? E quindi sì, che sarebbero stati sostanzialmente scalzati via dagli antenati che tornavano a riportarli alle origini. Questa fra l'altro è una cosa comune anche a altri culti del cargo, cioè credono sempre che i loro antenati siano coinvolti, siano quelle divinità che sono coinvolte nell'arrivo dei beni, no? Che hanno perso il favore. La popolazione ha perso il favore degli antenati e questo l'ha conquistato invece la popolazione che li opprime. C'è anche la profezia di Montezuma, è una cosa simile, no? Che tornerà per vendicarsi sui conquistatori, no? Potrebbe, comunque sicuramente questo è derivato spesso appunto da conquistadores o comunque gente strana che va in un territorio a sostanzialmente a sconvolgere gli stili di vita delle popolazioni, distruggendo delle culture millenarie. Infatti io tifo per Montezuma. Sì, sì. E per tutti i cultisti del cargo. Sì, sì, senz'altro. Allora, un'altra si è sviluppata durante la guerra del Vietnam tra alcuni appartenenti al popolo Hmong dell'Asia sudorientale, quindi vedete, spaziamo su tutti i continenti. Il nucleo del loro credo era che la seconda venuta di Gesù Cristo fosse imminente, solo che questa volta sarebbe arrivato indossando una tuta mimetica e guidando una jeep militare. Fantastico! Per portarli via nella terra promessa. Le origini sono sconosciute, ma si può supporre che sia stato estratto questo culto dalle immagini del nuovo potere che apparve loro in quel periodo, come al solito in forma di militari statunitensi e missionari cristiani occidentali. Sti missionari che fanno danni, eh? Sì, che vengono sempre ammirati questi militari, questi missionari, certo, dalla popolazione, ma solo per i beni materiali, sì, sostanzialmente. Sì. Un caso più recente di questo tipo di comportamento si ebbe nel 1979, quando la nave taiwanese Lun Chaun, che trasportava un grosso carico di componenti elettrici, si rovesciò nell'oceano polinesiano. Gran parte del carico rovesciato venne saccheggiata dagli isolani locali, che ricavarono dai detriti recuperati oggetti, alcuni di uso pratico, altri di uso rituale. Un più recente esempio di visione del mondo mitologica nata da un'interpretazione di pratiche scientifiche è accaduto invece in Africa. Questo è molto interessante. Un'organizzazione umanitaria ha distribuito abachi con palline rosse e bianche per insegnare praticamente alle donne a regolare, cioè a sapere quando avevano il ciclo e poter praticamente controllare le nascite più facilmente. Era stato spiegato come spostare le palline una al giorno in modo da calcolare i giorni in cui potevano avere rapporti sicuri sostanzialmente, solo che l'esperimento fallì perché la popolazione credette che l'abaco era un oggetto magico che consentiva, spostando le palline bianche in quel momento, di essere non fertile in quel periodo. Quindi le donne praticamente prima di avere dei rapporti spostavano le palline bianche. Durante e quindi poi è fallito miseramente questo esperimento. Beh, la cosa ci dice molto, no? Sulla magia, che lavora molto su associazioni, no? E su spiegazioni date male anche da... In quel caso lì sì, però insomma a livello di fenomenologia. Sì. Sì, comunque, vero, alcuni indios dell'Amazzonia hanno scolpito imitazioni in legno di registratori di audiocassette, gabarora, li chiamano loro, no? Sì, sì. Dal portoghese grabadora o dallo spagnolo grabadora, che usano per comunicare con gli spiriti. Sì, questo è simile a quello... all'altro culto, insomma, quello principale di John Froome. Dunque, diciamo brevemente che il termine culto del cargo viene usato anche al giorno d'oggi per descrivere altri fenomeni. Ad esempio, quando in una popolazione con meno benessere viene copiato un oggetto molto di moda però oggetto solo che non funziona sostanzialmente, un oggetto elettronico che però non funziona ma ha quell'aspetto e quindi... Come le torri radio di legno, eccetera. Sì, simile, però anche potrebbe essere tipo un iPod finto che uno tiene attaccato al portachiavi e sembra che uno abbia l'iPod, ma in realtà è una scatola vuota praticamente. Cose di questo tipo accadono. Inoltre è utilizzato anche nell'ingegneria del software, dove la programmazione cargo cult indica l'usanza di includere dei pezzi di codice, lasciarli lì perché si ritiene che possano servire a girare dei bug senza aver verificato effettivamente che quei pezzi di codice abbiano una funzione. Quindi anche, è una cosa molto trasversale questo culto del cargo. Beh, anche è entrato ormai nel linguaggio, le cose fatte a cargo, esatto sostanzialmente. E ricordiamo che il grande fisico Richard Feynman, sì, appunto, nel 1974, all'apertura dell'anno accademico del California Institute of Technology, usò l'esempio del cargo cult per discutere di pseudoscienze e di metodo scientifico, perché appunto ovviamente il collegamento viene semplice, insomma, qui si può pensare che appunto altre religioni anche nel passato possano essere nate dall'incontro fra alieni e assolutamente a livello di alta tecnologia con popolazioni che invece avevano più bassa tecnologia. Quindi qui abbiamo spiegato praticamente le piramidi e tutti, certo, gli altri monumenti, no? In questo modo. Assolutamente sì. Se Jacopo ci sta ascoltando sarà contentissimo. No, e inoltre vabbè, più semplicemente si nota come appunto non comprendere dei comportamenti può essere lo spunto per dargli un significato soprannaturale. Assolutamente, certo. Più semplicemente. E questo si riallaccia anche al costruttivismo, no? Sì, anche a un'altra cosa parecchio ganza, che è tipo una sorta di religione in base alla quale deriva un po' dalla macchina di Turing, il discorso che se un uomo è in grado di non capire... essere troppo tecnico. No. Allora, diciamo questo: se un uomo è in grado di capire esattamente come funziona un meccanismo, una cosa, è in grado di fare una macchina che sia in grado di fare quella cosa. Poi il problema è che siamo andati oltre, che siamo in grado di fare delle macchine con che fanno cose che noi non sappiamo. Esattamente, perché non abbiamo noi le capacità computazionali per risolverle, certo. Mentre loro ce l'hanno, basta prendere una serie casuale che per te è casuale e una macchina riesce a trovare un algoritmo che la spieghi. Sì. Ora il discorso è... Ho perso il filo, aspetta. Parlavi di Turing, forse si riferiva all'esperimento sull'intelligenza artificiale. Sì, esattamente, è lì che volevo arrivare. Infatti vedi che mi servirebbe anche a me un po' di intelligenza artificiale. Il problema è che puoi riuscire a fare poi delle intelligenze artificiali che siano superiori alla tua, e allora un po' di una cosa, tipo creare una specie più evoluta della tua. E allora te sei il dio che crea questa specie, e quindi il discorso... Però a quanto so il cosiddetto esperimento di Turing, quello in cui brevemente ci sono due stanze in cui c'è un computer in ciascuna e c'è una persona che chatta sostanzialmente con un'altra, senza sapere se effettivamente è un'altra persona o un robot. O un fake. Sì, ecco, e pare che nessuno abbia superato il test di Turing, o mi sbaglio? No, su questo non sono aggiornato. Okay. Comunque. Ecco. Il concetto se qualcuno dei nostri ascoltatori è un esperto di esperimento di frequentatore Turing. Di chat con bot, sì, esatto. Magari sa una risposta. Benissimo. Allora, chiudiamo qui la novità assoluta. Sì, mandiamo l'ultimo pezzo della giornata. Sì, e visto che abbiamo citato prima il chitarrista degli UAM, mandiamo un pezzo il più noto direi degli UAM, che è Wake Me Up Before You Go. Addirittura. Che comunque è un pezzo simpatico, secondo me, e ci manda nel prossimo blocco. Ecco qua. Sentiamo. Eccoci, siamo in conclusione. In chiusura, vi diamo come di consueto qualche segnalazione. Anzitutto, segnalazioni bibliografiche. Segnaliamo l'uscita di tre libri a carattere ufologico Il primo di Ade Capone si intitola Contatto, incontri... Di Al Capone? No, Ade Capone. Ah. Si intitola Contatto, incontri ravvicinati con altri mondi, edizioni PM. Un altro, Mondo alieno, UFO ed extraterrestri nella storia dell'umanità, di Umberto Visani, pubblicato da Aretusa nella collana Le Sorgenti. Ultimo in ordine di arrivo, il testo di Paolo Bolognesi, ex, parentesi, tra... chiuse parentesi, terrestre, UFO, Uomini Dei, della Lulu Edizioni. E a febbraio 2012 ci sarà il primo Festival Nazionale dell'Ufologia e del Mistero a Orvieto. Bene, bene, interessante. Altrimenti il 28 gennaio 2012 a Udine potete partecipare a una... la prima di una serie di tre conferenze esperienziali nella quale comprenderemo, secondo cosa dicono gli organizzatori, grazie all'interazione con i partecipanti, che dalla misurazione dei chakra emerge l'immagine del nostro vissuto. Con Walter Maestra, presso l'associazione Baira, in via San Rocco 2A, alle ore 20:30, appunto 28 gennaio 2012, a Udine. Altrimenti... sempre sabato 28 gennaio ci sarà un corso di firewalking, cioè camminata sui carboni ardenti. Il prezzo è modico, 97 euro. Relatore Sandro Carriero, presso l'azienda agrituristica Masi di Borghi. E semplicemente intende usare il firewalking, non si capisce bene come, per cambiare la vostra vita, cambiare i programmi. Dice in noi ci sono dei... esatto, da quel momento in poi ci dice Fede, vai lì, non lo sai fare, esci di lì che sei funzionato. Esatto, praticamente. No, in noi dice ci sono dei programmi che ci fanno attrarre ciò che vibra sulla nostra stessa frequenza. Se cerchi di cambiare quello che è fuori, perdi tempo e devi cambiare quindi dentro di te. E per correttezza bisogna dire che effettivamente il camminata nel fuoco, cioè, è fattibilissima, sì, perché non si tratta di fuoco ma di braci, basta andare a una certa velocità e si riesce a passare. Gioco da ragazzi. Comunque, altrimenti c'è sempre il 28 gennaio a Firenze, però dalle ore 21, dunque, con Coyote Cardo, docente di fisica spirituale dell'Olami Damanur University, alla luce degli studi e delle ricerche che ha compiuto da più di 30 anni nel campo della fisica non convenzionale, ci sono alcune risposte possibili a nuove domande. Ad esempio, cosa dice? Sul sito c'è scritto: una bibliografia antica e recente piena di profezie sul 2012, storie che raccontano in modo più o meno catastrofico ipotesi sul prossimo futuro. La filmografia recente è ancora più dilatato immagini da fine del mondo. Sì, Damanur, non ho capito quasi niente. Vabbè, ma... forse no, la cosa interessante uno è che si chiama Coyote Cardo. Che si chiama, infatti, perché tutti i membri di Damanur usano avere questi nomi un po' scautistici, fatti da un nome di animale e di vegetale. Sono molto... Ah, capisco. Sì, semmai poi parleremo di Damanur. Quindi non è Cardo in senso livornese. No, Cardo, no, no, no. Comunque in via Bardazzi 66, per la precisione. Sabato sera, esatto. E poi la capanna di purificazione sciamanica a Prato, località griciliana, è una potente esperienza cerimoniale che viene praticata in numerose culture, nelle Americhe come in Europa e Africa. Nello spazio fisico della capanna, che rappresenta l'utero di Nonna Terra, seduti vicino l'uno all'altro, sì, attraverso il sudore e le nostre parole ci riconnettiamo agli elementi, ai mondi, ci purifichiamo, mandiamo il nostro intento a ciò che conta di più nella nostra vita e diamo via quello che ci impedisce di realizzare il sogno. Se siete attratti da questa idea di passare del tempo nella capanna tra sudore e altro, se volete dare via qualcosa, potete scrivere a 20.sussurranti@email.it per altre informazioni. Bene, e chiudo dicendo stasera è già cominciato da qualche minuto a rassegna Fipili Horror Festival al Chino d'Essé qui a Livorno, e ci sarò anch'io. Se venite, ci vediamo là. Praticamente ci saranno tanti film horror toscani e anche un piccolo spettacolo a cura del Teatro della Cipolla. Benissimo, abbiamo preso un po' più di tempo perché appunto dopo di noi non ci sarà dietro l'angolo stasera. Sì, anzi, vi chiedo scusa per aver segnalato insomma la presenza della trasmissione, e all'ultimo minuto ci è stato detto che mancava Jacopo, ma tornerà sicuramente giovedì prossimo. Senz'altro. Con Dietro l'Angolo. Senz'altro. E noi ci rivediamo. Allora, prima diamo i contatti, sì. testacroceshow@gmail.com e l'email. Skype è testacroceshow. Salutiamo quelli che ci hanno ascoltato, ringraziamo Federico, e anche Lorenzo voleva fare un ultimo appunto. Sì, innanzitutto ringrazio voi che mi sono divertito un casino stasera. grazie a te di essere venuto, è stato grandioso. E poi niente, saluto anche gli altri componenti che non sono qua del gruppo, che sono Tommaso Simoni e Giovanni Lombardi, gli altri li ho già menzionati, gli altri, sì, sì. Giulio Fagiolini e poi l'amica con la Tice Rama, E niente, grazie a voi. Il sito è www.indovena.com, trovate tutto. E... ah, ricordiamo che ci sono anche i podcast, sì, esatto, di Testa sul nostro blog a testaocroceshow.blogspot.com. Benissimo. Una barra sul basso da cui potete ascoltare tutto quanto. In modo molto comodo e intuitivo. Sì. Velocissimamente Francesco ci consiglia di guardare il bellissimo film The Moon. E con questo è molto bello, confermo. È molto bello, l'ho visto anch'io. E con questo chiudiamo e mandiamo la nostra fantastica sigla. Alla prossima! Ciao a tutti! Ciao a tutti!